Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo la conversazione intrapresa ieri con Adolfo Baratta, che è ricercatore dell'Università degli Studi Roma 3, esperto di materiali massivi per le costruzioni edilizie. Buonasera Baratta, bentornato. Buonasera a voi. Ieri abbiamo ricordato molto rapidamente quali sono i materiali tradizionalmente più usati nel nostro paese per costruire edifici. La pietra, per esempio, il laterizio, il mattone, quello pieno, quello forato. E abbiamo capito che questi materiali, pur non offrendo grandi prestazioni in termini di isolamento, offrono però delle prestazioni interessanti rispetto a quella che viene chiamata massa termica, cioè la capacità di accumulare il calore, per esempio, quando è in eccesso, per poi restituirlo quando invece ce n'è bisogno. Per esempio, un materiale come il granito accumula molto calore quando è esposto al sole e di notte può cederlo all'interno dell'abitazione. Questa sera vogliamo, a partire dalle caratteristiche di questi materiali, capire come si può intervenire per migliorare ulteriormente le prestazioni di una abitazione. Baratta, io direi partiamo dalla pietra, il materiale da costruzione per eccellenza, almeno così è stato fino a qualche decennio fa. Già qui dobbiamo fare una prima distinzione. Tra gli edifici con una tecnica di costruzione particolarmente povera, no? Sono dei sassi, spesso di fiume, che sono accatastati uno sull'altro, tenuti insieme con un po' di cemento, e invece tecniche più ricche, come per esempio la pietra in blocchi squadrati. Ecco, come si interviene su edifici di questo tipo? Ma tanto va valutata di volta in volta la situazione che si va ad affrontare. Sempre. Sicuramente certo. una parete, un muro in pillole di fiume con grandi quantità di malta determina un comportamento sicuramente non ottimo da un punto di vista termico. E in questi casi, siccome raramente si tratta di un involucro, diciamo, verticale di particolare pregio, la soluzione migliore è sicuramente quella di intervenire con un intonaco termico che garantisce alte prestazioni con spessori contenuti o con un cappotto. Personalmente non amo molto il cappotto perché praticamente rischia di togliere una dei maggiori vantaggi che sono legati a questi materiali naturali come la laterizio e la pietra, che è quello della traspirabilità. Un cappotto non traspirante, un cappotto che chiude, rischia di compromettere la qualità dell'aria interna, quindi quando si sceglie un cappotto bisognerebbe avere l'accortezza di utilizzare dei materiali che garantiscono comunque la traspirabilità della parete. In alternativa all'intonaco e al cappotto si può pensare alla controparete interna. La controparete interna ha il vantaggio di non intervenire sulla facciata, il che vale in particolare per edifici in pietra magari di maggiore pregio. Certo. Pensate a una pietra squadrata che insomma che è bello che rimanga a vista, insomma. Esatto. E a volte è obbligatorio perché ci sono dei vincoli anche da rispettare, può paesaggistici. Può essere vincolato alla sovrintendenza, ma comunque è un sacrilegio andare magari a coprirla. In quel caso una controparete interna sicuramente è la soluzione più adatta, con lo svantaggio però di ridurre la superficie degli spazi interni. Quindi è necessario intervenire con grande attenzione. Quindi si interviene comunque dall'esterno quando non c'è una facciata di pregio da salvaguardare, invece si interviene dall'interno, esatto, quando siamo in questo secondo caso. Si può anche tenere presente che esistono materiali particolarmente innovativi che in spessori molto ridotti garantiscono un grande isolamento, questo per non perdere troppo spazio abitabile, però quei materiali, diciamolo, costano molto, ma molto di più di quelli tradizionali per l'isolamento. Passiamo ad un altro materiale, il mattone pieno. Uno va a Bologna e vede che mezza città è fatta di mattoni pieni. Sì, non solo Bologna, l'Italia, certo, centrale, certo, in grandi quantità. Il mattone solitamente quando è pieno e faccia a vista viene lasciato sull'esterno in modo che arricchisca, diciamo così, l'epiderme dell'edificio, e anche in questo caso, ancora più che nel caso della pietra che abbiamo visto in precedenza, si deve pensare a una controparete interna o comunque a generare qualcosa che non vada a compromettere l'aspetto estetico. La controparete interna può essere anche semplicemente un isolante di pochi centimetri di spessore con un forato in laterizio, piuttosto che un cartongesso, piuttosto che altri materiali, calcestruzzo cellulare, perché no? Dipende dallo spazio e dagli ambienti su cui si va a intervenire. E poi c'è il laterizio forato, il classico mattone, insomma, no? Laterizio forato è il classico blocco. In questo caso dipende dalla tipologia di parete. Esistono pareti monostrato, pluristrato, a cassetta, a cassa vuota, a schermo avanzato, quindi dipende dall'oggetto su cui si interviene. Purtroppo le soluzioni più disgraziate sono quelle degli edifici negli anni 60-70, perché sono quelli che sono stati realizzati con telaio, struttura intelaiata in calcestruzzo armato e tamponamento realizzato da due paramenti murari e un'intercapedine completamente vuota all'interno. Quindi due muretti, diciamo, di una dozzina di centimetri di spessore separati da una camera d'aria. Esatto. E in questo caso l'intervento, seppur complicato e costoso, sicuramente l'intervento più intelligente è quello di riempire, diciamo, in un qualche modo saturare questi intercapedini d'aria con dell'isolante termico, che sicuramente va a ricostituire la tipologia, diciamo così, della parete a cassetta in cui i due paramenti murari sono separati da un isolante termico. Insomma, ci sono delle schiume, per esempio delle schiume poliuretaniche, sì. Si fa un buco nel muro, si infila un manicotto e si riempie di schiuma, questa è una possibilità, ma ci sono tantissimi altri materiali, anche bio, e si riempie, insomma, questa intercapedine. Mentre possiamo dire che quelle abitazioni che sono state realizzate con classici mattoni forati, magari con 40 o 50 centimetri di spessore di muro, sono delle abitazioni che offrono già di base un buon comportamento, no? Sia in termini di isolamento che di massa termica. Assolutamente sì. La soluzione monostrato in area mediterranea è sicuramente quella più auspicabile, quella che garantisce un buon comfort interno, traspirabilità alle pareti, durata, perché non dimentichiamoci che i materiali naturali come la pietra e la laterizio hanno una durata praticamente illimitata. Certo. Soddisfano, diciamo, più aspetti di quelli che sono le attese da parte degli utenti. Grazie Baratta. Grazie a voi. Bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.